cos'è quest'estate di Elisabetta Fiorito. A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest'aula e ribadirlo con chiarezza per arrivare a tutte quelle famiglie che ci stanno ascoltando e che spesso sono travolte da toni allarmistici e apocalittici. Ho firmato lo scorso 24 luglio l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni dal 14 settembre. 800 24 00 24 per intervenire, 349 238 6666. Un buongiorno da Elisabetta Fiorito. Come avete sentito, la ministra Lucia Azzolina promette che la scuola riaprirà a settembre. Noi ne parleremo con i nostri ospiti, anche perché, come avete sentito anche da Giulia Crivelli, è il titolo di apertura di tutti i giornali. A scuola con le mascherine, scrive Repubblica. Mascherine dai 6 anni in su, scrive il nostro giornale Il Sole 24 Ore. Scuola apertura scaglionata, Il Messaggero. Subito abbiamo in linea Alessandra Maiorino, vice capogruppo Senato del Movimento 5 Stelle. E a lei chiedo, Presidente, è così? Si riuscirà? Perché noi, da quello che leggiamo sui giornali, vediamo un grandissimo caos per quanto riguarda l'apertura delle scuole. Buongiorno, buongiorno a lei innanzitutto e ai suoi ascoltatori. Sì, dunque, facciamo un attimo il punto della situazione. Si tratta di riportare a scuola 8 milioni e mezzo di studenti contemporaneamente, perché contrariamente a quanto si vocifera, c'è l'intenzione comunque di fare una riapertura totale e non scaglionata. Si tratta ovviamente di uno sforzo enorme, come si può facilmente comprendere, trattandosi di una vastissima popolazione studentesca in tutta Italia, con istituti diversi, ognuno con le proprie specificità logistiche, per cui è chiaro che c'è un enorme impegno, però io sono sicura, guardi, mi viene in mente le moltissime polemiche che ci furono fino al giorno prima sostanzialmente degli esami di maturità, quando invece questo governo e la ministra Azzolina riuscì a portare agli esami in presenza 500.000 di studenti, contrariamente, e questo non viene sottolineato abbastanza spesso, a quanto è successo in molti altri paesi europei, dove invece gli esami di maturità sono stati cancellati. Quindi ecco, io mi auguro che questo sia un successo, per quanto non sia stato forse sufficientemente evidenziato poi dagli stessi che prima avevano polemizzato, un successo che si potrà ripetere. Ripeto, nonostante le difficoltà, però lo sforzo che è stato messo in campo è enorme. È stato ricordato che ci sarà una distribuzione gratuita di 11 milioni di mascherine al giorno, 50.000 litri circa di gel sanificante, i test gratuiti per personale docente e non docente. Cioè, veramente sono stati stanziati quasi 3 miliardi per la riapertura delle scuole. Se si trattasse di fare una scommessa, io scommetterei che succederà. Poi, che non ci saranno criticità, che non ci saranno problemi, questo anche lo escludo. Questo no, questo no. Adesso diamo la linea al traffico per ritrovarci subito dopo con Alessandra Maiorino, vice capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Ma cos'è quest'estate? Mi è appena arrivato un messaggio di merda, sincero. Le discoteche chiudono? Non ho parole, raga, ve lo giuro, cioè, mi viene da piangere. Mettiamo così, caro governo, se voi chiudete le discoteche io non vado a scuola. E quella che avete sentito è Gaia Bianchi, una sedicenne che ha 1 milione di follower su Instagram e che ha dichiarato pubblicamente che lei, se le discoteche chiudono, non andrà a scuola. Beh, insomma, ora non chiedo a nessuno di commentare l'incommentabile, diciamo che magari i genitori potrebbero convincere questa donzella a studiare di più e magari ballare un po' di meno. Alessandra Maiorino, vice capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, su Repubblica oggi però c'è un racconto sul, sono andati nella fabbrica dei banchi e dicono appunto si doveva partire prima, non ci chiedano miracoli, i preparativi di una delle aziende scelte per rifornire gli istituti pronti ad iniziare, basta che non pretendano le consegne a settembre. Quindi insomma questa riapertura della scuola sarà scaglionata non solo negli orari ma anche nei giorni, cioè si inizia il 14 settembre, magari non si finisce a Natale. Ripeto, non sarà scaglionata e poi mi sorprende comunque proprio questo appunto, perché mi pare di ricordare, ma ne ho certezza, diciamo così, è un eufemismo a modo di dire, la ministra fin dall'inizio ha detto che la consegna si sarebbe svolta a partire da settembre e per tutto il mese di ottobre, ed è proprio per questo motivo, per questa differenza di consegna, chiaramente stiamo parlando di 2,5 milioni di banchi monoposto, non stiamo parlando di decine di banchi, stiamo parlando di 2,5 milioni di banchi monoposto, proprio per questa consegna scaglionata, non riapertura delle scuole scaglionata, probabilmente ci sarà da adattare, diciamo così, le regole a cui attenersi a seconda della condizione in cui ciascun istituto si trova. Laddove non sarà possibile rispettare il distanziamento di 1 metro, si dovrà probabilmente indossare la mascherina, ove non fossero ancora arrivati i banchi. Quando arriveranno i banchi in numero sufficiente, ricordiamo che sono stati ordinati in numero anche superiore a quello necessario, quelli richiesti dai presidi, ne sono stati ordinati di più, quando il distanziamento si potrà rispettare, allora molto probabilmente non ci sarà l'obbligo di mascherina per gli studenti chiaramente superiori ai 6 anni. Quindi sinceramente questa puntualizzazione mi sfugge un po'. Sì, le sfugge. Ci ha raggiunto Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria ed esperto poi del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. Appunto, l'allarme sulla possibilità di usare le mascherine in classe è stato proprio lanciato ieri dal CTS. Allo stato attuale, lei come vede questa riapertura il 14 settembre, Villani? Buongiorno, la vedo sicuramente possibile e non parlerei di allarme. Ricorderei a tutti che è in corso un'epidemia, che negli Stati Uniti e in Brasile sta mietendo vittime, che in Francia e in Germania, dove non sono state adottate le misure che sono state adottate in Italia, vede 3.500-4.000 casi. E quindi, ricordandosi di questo, l'uso delle mascherine è uno dei 3 pilastri fondamentali per evitare il contagio, quindi una barriera delle vie aeree, il lavaggio delle mani e il distanziamento. Quindi la scuola si riaprirà, è chiaro che bisognerà fare conti con quella che è una situazione storica. Io sono veramente sorpreso come giornalisti, politici si sorprendano di quella che è la situazione della scuola italiana. La scuola italiana è andata avanti grazie al coraggio, all'impegno di chi ci lavora per tanto tempo, ma è in una situazione in cui nell'ordinario si riusciva a fare quello che miracolosamente si riusciva a fare. In una situazione pandemica chiaramente escono fuori tutte quelle che sono le criticità, un'edilizia scolastica che risale in gran parte a prima della nascita della nostra Repubblica, un rapporto docenti-insegnanti che non è adeguato, e quindi noi dobbiamo fare i conti con tutte queste realtà. L'insegnamento, l'istruzione è un diritto costituzionale che deve essere garantito, ci vorrà la partecipazione di tutti, genitori, alunni, insegnanti, informazione, per far sì che questo sia possibile, adeguando le misure da prendere a quelle che saranno le realtà locali. Credo che da parte del Ministro dell'Istruzione Azzolina, del Ministro della Sanità Speranza ci sia stato un grandissimo impegno, c'è un grande impegno, e quindi credo che questo sarà realizzabile, ma i rischi saranno proporzionalmente tanto elevati quanto più ci si discosterà da quelle che sono le indicazioni. Quindi se si rispettano le regole non solo si potrà andare a scuola, ma anche in maniera assolutamente serena. Alessandra Maiorino, ricordiamo vice capogruppo Senato del Movimento 5 Stelle, però io leggo anche sui giornali che le regioni vi attaccano il governo centrale verso le riaperture, c'è troppa incertezza, addirittura in Puglia, Friuli e Sardegna sarebbero intenzionati a rimandare il rientro. Ecco, per questo io parlo di caos, che cosa fareste a quel punto? Ma la situazione è in evoluzione, come è stato ricordato anche proprio adesso dal dottor Villani, la situazione è in continua evoluzione, è per questo che una decisione finale, diciamo, sulle regole da adottare è stata rimandata a fine agosto, perché da qui a fine agosto, in una 15 giorni, i dati saranno aggiornati e si potranno dare delle risposte più puntuali rispetto a quella che è la fotografia della situazione reale. Mi viene da aggiungere, queste polemiche ci sono sempre state, la questione tra le regioni e il governo centrale, però io mi unisco all'appello, mi sembra di capire tra le righe fosse un appello del dottor Villani, perché veramente qui stiamo parlando del futuro dei nostri ragazzi, della salute dei nostri ragazzi, dell'istruzione e del futuro delle nuove generazioni, quindi veramente ci sarebbe non da dividersi e polemizzare, ma di cercare veramente di contribuire tutti insieme, ciascuno nel proprio ruolo. Io conto, aggiungerei alla lista che prima ha fatto il dottor Villani, anche gli enti locali, che hanno un ruolo enorme, una grandissima responsabilità e una grandissima occasione anche di dimostrare veramente ciò che possono fare per contribuire al buon andamento delle riaperture scolastiche e quindi, ripeto, del futuro dei nostri ragazzi. Vorrei aggiungere soltanto un'altra cosa, che anche questa ogni volta passa un po' sotto silenzio. Questo governo ha stabilizzato 97.000 tra docenti e personale non docente. In più ci sarà l'assunzione di 50.000 o 70.000, sembra l'ultima cifra è 70.000, di docenti invece a tempo determinato, proprio per poter sopperire a quelle mancanze, eventualmente si dovessero essere necessari sdoppiamenti di classe, insomma una necessità di un organico maggiore. Quindi veramente è chiaro che le polemiche purtroppo in questo paese ci siamo piuttosto abituati, però lo sforzo messo in campo è massimo. Ricordo come ultima cosa che 6 miliardi sono stati investiti nella scuola da gennaio ad oggi, cioè il ministro dell'istruzione, la ministra Azzolina, ha giurato a gennaio. La prima cosa che si è trovata da gestire è stata niente di meno che una pandemia globale, e questo governo ha investito 6 miliardi nella scuola. Io non ricordo che fosse mai stato fatto prima. Io non dico una pacca sulla spalla, bravi, perché per carità, questo no, però insomma quantomeno cercare di essere anche puntuali nel ricordare gli sforzi e tutti i passi fatti. Veniva ricordato come la nostra scuola purtroppo sia stata negletta e smantellata nei decenni trascorsi, si sta cercando di invertire la rotta, non può succedere nel giro di poche settimane, ci vorrà l'impegno, ma mi sembra che la partenza sia quella giusta, sinceramente. Allora ringraziamo Alessandra Maiorino, vice capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, diamo il benvenuto a Nicola Fratoiani, deputato di LeU, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera. Abbiamo sentito Maiorino che dice ci è voluta in sostanza una pandemia per reinvestire sulla scuola, e aggiungerei, visto che il ministro della salute è del vostro partito, Roberto Speranza, e anche per investire di nuovo nella sanità. Quindi c'è qualcosa che con la pandemia si è rotto e sta ricominciando ad essere riaggiustato, no? Prima si era rotto, adesso si riaggiusta? Ma no, non c'è dubbio che la pandemia abbia avuto questo effetto paradossale, se vogliamo, una enorme tragedia che, come vediamo purtroppo anche dal conto dei dati quotidiani, non è ancora finita, è ancora di fronte a noi. Richiede sì, la sentiamo male, Fratoiani, si deve avvicinare, sì, al telefono e si deve spostare verso la finestra. Io sono molto vicino, sto cercando un punto dove... adesso la sentiamo un po' meglio. Non copertissima. Comunque, stavo dicendo che la pandemia ha avuto questo effetto paradossale, cioè di fronte a una tragedia che, ripeto, non è finita, ha però rimesso al centro dell'attenzione del dibattito politico e anche dell'azione politica alcuni aspetti centrali nella nostra vita. Uno di questi è la sanità pubblica, il diritto universale per tutti e tutte, l'altro la scuola, che per troppo tempo erano stati oggetto di tagli, di marginalizzazione, quando invece dovrebbero appunto essere uno dei pilastri fondamentali del lavoro di chi governa, di chi programma, di chi fa appunto la politica come spazio della cura dell'interesse generale. Oggi siamo di fronte a un passaggio molto importante, quello della ripresa della scuola, perché quello che è accaduto durante l'emergenza è stato innanzitutto per i ragazzi, per gli studenti, le studentesse, per i più piccoli, è stato purtroppo un problema molto grande, ha provocato dispersione formativa, ha aumentato le differenze e le diseguaglianze che pure già erano presenti nel nostro paese, dunque anche nella scuola italiana. È ovvio però che di fronte alla pandemia, che è ancora presente, alla circolazione del virus che è ancora presente, non siamo del tutto nella condizione di poter garantire che la scuola riapra e svolga tutte le sue funzioni come è sempre successo prima di questa pandemia. Questo bisogna dirlo con onestà, anche per evitare di continuare a fare annunci su rientro in sicurezza senza, e in presenza senza alcun problema, con rischio poi di fronte appunto a un aumento dei contagi di dover fare altre scelte. Anche perché è vero che si è invertita la tendenza sul piano dei finanziamenti finalmente, ma è anche vero che questa inversione non è ancora sufficiente. Sulla sanità giustamente e comprensibilmente l'inversione è stata molto forte, sulla scuola siamo ancora indietro, sono troppo poche le risorse che sono state investite e ancora ci sono scelte che andavano fatte, che non sono state fatte, che io credo vadano fatte più presto. Bisogna assumere più insegnanti, più personale ATA, bisogna ridurre in modo significativo il numero degli alunni per classe, non solo per rispondere alla pandemia, ma anche per appunto rimettere al centro la scuola italiana una volta per tutte. Diamo la linea alla regia per ritrovarci subito dopo con Alberto Villani e Nicola Fratoianni. Ma cos'è quest'estate? Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria ed esperto del Comitato Tecnico Scientifico. Due domande per lei perché so che poi ci deve lasciare. Intanto si parla molto di scuola e poco di università. Cosa succederà? Io mi ricordo queste lezioni nelle aule magne, no? Di filologia germanica oppure di letteratura inglese con Agostino Lombardo, pienissime. Che cosa succederà per esempio all'università? E poi che cosa consiglia per i trasporti? Perché poi sentiremo anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Questo è un altro di quei problemi che si sta verificando per il rientro a scuola. Ma guardi, credo che bisogna far sempre appello al rispetto delle regole, a ciò che verrà detto. Viene poco sottolineato che siamo in presenza di una pandemia. Tutto il mondo è stato bloccato dal coronavirus, quindi bisogna trovare delle soluzioni che siano le più ragionevoli e praticabili a garantire una qualità di vita migliore possibile, quanto più tra virgolette normali, con quella che è la situazione. Quindi le università, ogni università si sta attrezzando, chiaramente con gli universitari la possibilità di formazione a distanza, di usare delle altre modalità di insegnamento e di docenza è possibile e verrà adattata dalle singole facoltà, dalle singole università in base a quelle che saranno le disponibilità di spazi, di docenti, e bisognerà necessariamente fare i conti con quella che è la situazione epidemiologica. Per quanto riguarda i trasporti, stesso discorso, nel rispetto delle norme che ci sono state date, bisogna cercare di far sì che la vita continui, che quindi siano garantite soprattutto quelle che sono delle necessità essenziali, e tra queste sicuramente l'istruzione e la sanità hanno una priorità assoluta nella tutela della salute. Quindi quello che è importante è ricordarti che c'è il coronavirus, le decisioni che vengono prese non vengono prese per il libero arbitrio o scelta di questo o quel personaggio, ma perché purtroppo c'è il coronavirus con il quale bisogna fare i conti. Credo che il comportamento dell'Italia sia stato esemplare, non a caso paesi noi vicini che inizialmente avevano anche assunto un atteggiamento critico in quelle che erano le decisioni di contenimento italiane, Francia, Germania, tanto per non fare nomi, adesso si ritrovano in una situazione, la Spagna, che è decisamente preoccupante, Stati Uniti e Brasile, dove non si sono tenute nel dovuto conto, nel dovuto rispetto di questo virus, attenzioni che erano doverose, ripeto, si trovano nella situazione in cui si trovano. Quindi io credo che l'Italia abbia garantito, grazie alle sue istituzioni, al prestigio delle sue istituzioni, una situazione che è più che soddisfacente, e questo è dovuto anche al fatto che in Italia, e molti se lo dimenticano, abbiamo il sistema sanitario nazionale che garantisce cure a tutti, con delle criticità, con dei problemi, ma le garantisce in maniera gratuita e a tutti, e abbiamo la possibilità di avere l'istruzione e le scuole gratuite per tutti. Senta, Villani, veramente da tener conto, perché altrimenti si parla sempre di diritti, di quello che uno vuole, trascurando che c'è una pandemia e trascurando la condizione privilegiata in cui si vive. Senta, lei che però è pediatra ed esperto poi del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, a che punto è la sperimentazione di questo vaccino allo Spallanzani? Quanto tempo, ragionevolmente, perché noi sentiamo annunci di vaccini ogni giorno, no? Dalla Cina, dalla Russia, eccetera. Quanto tempo, le chiedo proprio un parere da scienziato, ci vorrà prima che un vaccino sia sicuro e sia distribuibile a tutta la popolazione? anche qui va fatta una precisazione: normalmente i tempi per arrivare a un vaccino sono molto molto lunghi. La pandemia ha fatto sì che in moltissimi laboratori di ricerca si siano avviate delle ricerche appunto per arrivare a un vaccino. Quindi rispetto a quella che è una condizione usuale abbiamo un numero esponenziale rispetto al solito di laboratori di ricerca che stanno cercando di arrivare a un vaccino. Per arrivare a un vaccino, oltre che la competenza di chi fa ricerca, bisogna anche, diciamo, avere tutta un'altra serie di fattori, e soprattutto una volta trovato il vaccino vanno fatte le sperimentazioni, poi il vaccino deve essere prodotto. Per come stanno andando adesso le cose, sembrerebbe ragionevole poter sperare in qualche mese di disporre di almeno un vaccino che possa essere efficace e sicuro. Però, le ripeto, è un traguardo straordinario che verrà raggiunto, perché i tempi per arrivare a un vaccino in genere sono molto molto più lunghi. È sicuramente un orgoglio italiano il fatto che l'Istituto delle Malattie Infettive Nazionali, il Lazzaro Spallanzani, sia tra i centri di maggior prestigio e che stiano lavorando a un vaccino, e questo offre ulteriori garanzie, anche perché i sistemi di tutela e di diciamo così, controllo italiani sono sicuramente tra i più sofisticati al mondo, e quindi sappiamo certamente che il vaccino che verrà prodotto grazie allo Spallanzani sarà sicuramente efficace e sicuro. Ringraziamo allora Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria. Prima di lasciare Nicola Fratoianni di Leo, le voglio fare una domanda. Sul Messaggero oggi c'è scritto: l'epidemia investe tutta l'Italia, il Sud finirà sotto pressione. Andreoni di Tor Vergata dice: ospedali poco attrezzati nelle regioni meridionali, al Cutugno di Napoli già esauriti i posti in terapia subintensiva. Ecco, lei che ovviamente lavora anche insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza, ha questa preoccupazione, come reagirete? Cosa farà il governo per evitare questo pressing sulle terapie intensive al Sud? Ma io credo che questo sia il problema principale del paese di fronte a quella che molti chiamano la seconda ondata o il rischio di un'ondata di ritorno. È il problema che abbiamo avuto nella prima fase, c'è una pressione enorme sul sistema sanitario che, come però è stato ricordato da Villani poco fa, vorrei solo tornarci perché credo che sia molto importante quello che ha detto, è, e questo è decisivo, un sistema sanitario universale che con tutti i suoi limiti però garantisce, a differenza di quello che accade in molti paesi, le cure a tutti e a tutti. Ma è evidente che se la pressione dovesse essere, come è capitato nei mesi più duri tra marzo e aprile, troppo forte, troppo concentrata nel tempo, il rischio di andare in sofferenza è molto alto, e se questo dovesse avvenire anche in aree del paese dove storicamente ci sono elementi di vulnerabilità maggiori legati appunto ai tagli di questi anni, legati alla difficoltà di ricostruire un presidio non solo ospedaliero, anche qui è molto importante, ma un presidio territoriale della sanità diffuso, di prevenzione, lo abbiamo visto durante la pandemia, anche laddove c'erano eccellenze ospedaliere, ma l'assenza quasi totale di una sanità territoriale diffusa, un sistema di prevenzione, le difficoltà sono state enormi. Quindi è chiaro che bisogna concentrarsi su questo, ed è chiaro che in questo momento, cioè in un momento in cui pur di fronte a una crescita della curva non c'è una pressione critica sul sistema sanitario, quello che va fatto è accelerare, aumentare enormemente il numero dei tamponi, la capacità organizzativa del sistema sanitario di effettuarli, quindi di tracciare, testare, e in questo modo garantire che le catene di contagio, che pure ci sono, come si vede, e continueranno ad esserci fino a quando non ci sarà un vaccino sicuro e disponibile, possano essere bloccate prima che sfuggano al controllo, perché è chiaro che questo è l'elemento decisivo di questa sfida, evitare che le catene del contagio sfuggano al controllo. Se saremo in grado di fare questo, se il sistema sanitario, le regioni, gli enti locali saranno in grado di fare questo, se tutti saremo in grado di farlo, anche continuando a rispettare con grande attenzione le norme, evitando la sottovalutazione che pure troppo abbiamo visto invece in molti casi anche quest'estate, allora io credo che sarà possibile evitare che la pressione superi la soglia critica, altrimenti naturalmente sarà tutto un altro discorso e non sarà un bel discorso, quindi dovremo, credo, lavorare su questo. Grazie a Nicola Fratoiani, deputato di LeU, vicepresidente Commissione Cultura della Camera. Chiedo al sindaco di Napoli, che è in linea, Luigi De Magistris, di aspettare, perché abbiamo precedentemente sentito anche Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Le Presidi, e in un'intervista al Corriere della Sera una delle presidi dice: è un incubo seguire le indicazioni perché sono sempre diverse, non so per quanto riapriremo. Ecco. Così, Giannelli? Beh, diciamo buongiorno innanzitutto a lei e a tutti gli ascoltatori. Sicuramente stiamo vivendo in un momento in cui c'è una certa concitazione, perché l'anno scolastico sta arrivando e quindi si susseguono delle indicazioni, delle precisazioni che un po' erano previste. Lo stesso CTS aveva previsto di rivedere nell'ultima quindicina di giorni di agosto alcune indicazioni che per esempio riguardavano le mascherine, l'obbligo di portare le mascherine per i bambini delle scuole primarie. Si sperava di poter fare a meno di questo obbligo, e invece un po' l'andamento dell'epidemia, un po' il fatto che probabilmente in non tutte le aule sarà possibile rispettare il distanziamento dall'inizio, questo obbligo a questo punto è diventato cogente. Quindi una certa modificabilità delle indicazioni è nelle cose ed è fisiologica. Indubbiamente abbiamo delle difficoltà nel seguire tutte queste modifiche, queste indicazioni di interpretazioni, e quindi comprendo il punto di vista, insomma, di chi se ne è lamentato. E sindaco De Magistris, qual è la situazione a Napoli? Che cosa vi preoccupa di più per la riapertura delle scuole, il trasporto o anche questa ondata, questa seconda ondata? Al Cutugno di Napoli, dicevamo, sono già esauriti i posti in terapia subintensiva, 10 pazienti e 8 letti. Ah, buongiorno, a noi preoccupa tutto, ma le sfide si devono fare e si devono vincere. Io non riesco proprio a ipotizzare un settembre senza inizio dell'anno scolastico. Quindi Napoli, come ha dimostrato anche quest'estate, in una ripresa culturale credo così forte e unica in città, si farà nel paese, si farà trovare pronta anche per le scuole. Certo è difficile, perché si poteva programmare 6 mesi fa a livello nazionale, invece in queste ore arrivano le ultime indicazioni, le linee guida, qualche risorsa economica, ma noi questo l'avevamo preventivato, ci siamo mossi in anticipo, stiamo aumentando gli spazi, stiamo anche mettendo in campo iniziative originali, insomma bisogna ritornare a scuola. Io mi auguro che ci sia buon senso e non isteria, e siccome ci sarà il primo caso di Covid nelle scuole, questo è altamente probabile, mi auguro che non accada che un minuto dopo si chiudano tutte le scuole d'Italia, perché sarebbe un disastro culturale, sociale e generazionale credo senza precedenti. Sul trasporto vi state attrezzando, insomma, una città come Napoli, metropolitana, avrete delle corse in più di autobus, di metropolitana, ci saranno gli autobus dedicati agli studenti? Guardi, per le città credo che è un miracolo se noi lo facciamo partire il trasporto pubblico, perché le risorse economiche che il governo ha impegnato per i comuni ancora non sono arrivate. Noi non possiamo aumentare le persone all'interno degli autobus, dei tram, dei filobus, delle metro e delle funicolari, perché ci sono le limitazioni del Covid. Quindi sicuramente ci faremo di tutto, ma non è che possiamo fare miracoli, questo è un tema che bisogna comprenderlo bene. Quindi ci saranno delle modulazioni che consentiranno di utilizzare al meglio il trasporto pubblico, al meglio anche i taxi collettivi che abbiamo inserito. Stiamo provando a lavorare per delle linee dedicate esclusivamente ai ragazzi, con gli orari diversificati. Sarà molto difficile, però è una grande sfida. Io credo che noi la possiamo vincere, di coniugare rispetto della salute e interrompere la compressione di diritti costituzionali senza i quali l'Italia non riparte, perché non c'è solo l'aspetto sanitario, c'è l'aspetto sociale, l'aspetto economico, l'aspetto culturale, l'aspetto umano e l'aspetto lavorativo. A Napoli quest'estate finora ce l'abbiamo fatta, la sfida più difficile sarà a settembre, ma ci faremo trovare pronti. Ci saranno problemi, disagi, ma se c'è uno spirito di comunità e il popolo è unito, io penso che l'affronteremo bene. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi, una delle polemiche di questi giorni è che voi vi sentite tutta la responsabilità scaricata sulle spalle e si parla anche, per esempio, come ha detto il sindaco di Napoli De Magistris, cosa si farà all'indomani di un ragazzo risultato positivo. Addirittura si parlava di responsabilità anche penale dei presidi. Ecco, ci vuole dire qual è la vostra posizione e che cosa state dicendo al governo? Che cosa state chiedendo al governo? Sì, allora questa è una questione di lunga data. In altri termini, già prima della esplosione dell'emergenza Covid avevamo segnalato in più occasioni che il dirigente scolastico, il preside, essendo equiparato dal punto di vista penale al datore di lavoro, necessita di una revisione della responsabilità penale che risulta troppo gravosa rispetto alle condizioni in cui si trova a operare. Quindi è un qualche cosa che parte da prima dell'emergenza. L'emergenza naturalmente l'ha fatta diventare più urgente e più cogente, in quanto, come sappiamo, il contagio da coronavirus avvenuto tra virgolette sul luogo di lavoro, che poi va dimostrato se è avvenuto sul luogo di lavoro, è equiparato per legge a un infortunio sul lavoro, il che significa che colui che riveste la qualifica di datore è chiamato a risponderne. Poi è del tutto ovvio, lo sappiamo, ci precisano che bisogna vedere, valutare e accertare, ma questo noi lo sappiamo benissimo. Il punto è che se in una scuola, come è probabile che avvenga, ci saranno dei casi positivi, e noi vorremmo evitare che il preside dovesse passare un certo tempo della sua vita a difendersi nei relativi processi penali per essere poi assolto, ovviamente, però perché deve andare in questi processi a difendersi per qualche cosa che assolutamente non dovrebbe dipendere dalla sua responsabilità? E quindi in questo senso abbiamo chiesto una revisione. È stata rivista la responsabilità civile per i datori di lavoro, ma noi chiediamo la revisione di quella penale. Mi sembra ovvio. E un radioascoltatore, Giannelli, una domanda per lei, chiede dove immagazzinerete i vecchi banchi, no? Cioè, poi noi ricordiamo questa bellissima canzone di Antonello Venditti, compagno di scuola, compagno di banchi, oramai con il Covid non ci sarà più il compagno di banco, ma questi vecchi banchi che fine faranno? Beh, allora, chiaramente a scuola non possono essere stoccati, in quanto le scuole non hanno minimamente gli spazi per provvedere a questo accumulo. Devono essere ritirati dallo stesso soggetto, dal fornitore dei banchi nuovi, oppure dagli enti locali. Ricordo che in Italia la competenza, la responsabilità per la copertura e la fornitura degli arredi è degli enti locali, e quindi noi chiederemo a loro di provvedere. Enti locali, quindi anche Comune di Napoli. Sindaco, lei ha questo problema di smaltimento dei vecchi banchi? Guarda, la cosa bella che gira e gira il cerino, come giusto che sia, va ai sindaci che stanno tenendo la coesione sociale del paese. A me dispiace che a distanza di 6 mesi dalla pandemia il governo non abbia compreso che se non si sostengono a dovere i sindaci, il paese è un po' come Birilli, cade giù. Però noi ce la faremo, stoccheremo anche i banchi, e come ha detto il preside non bisogna lasciare nessuno col cerino in mano. Questo tema della responsabilità penale è un tema molto delicato che secondo me rischia di creare delle preoccupazioni che possono invece essere evitate. In questo momento il paese deve essere unito, noi a Napoli stiamo provando a farlo, lo faremo con la scuola, perché io non riesco proprio a immaginare un futuro del nostro paese senza la comunità scolastica, senza quel stare insieme tra compagni. Ecco, il termine compagni nasce nella scuola. Io se non avessi avuto, penso a mio figlio di 16 anni, no? Penso quanto sta perdendo della sua vita, e così tanti bambini, tanti figli del nostro paese. Questo a me addolora molto, e forse non tutti lo stanno comprendendo. Il governo deve stare attento, perché questo è il momento del buonsenso, della testa sul collo, e dobbiamo saper reggere anche alcuni momenti difficili che ci saranno a settembre, ma le scuole devono non chiudere. Senta, De Magistris, in una città come Napoli, come ha funzionato nei mesi scorsi la didattica a distanza, con delle sperequazioni sociali molto forti, no? Dove magari in molte famiglie non c'era un computer, come avete reagito? È stato difficile, immagino. Guardi, è stato difficile, però ha funzionato complessivamente bene, ma non è proprio equiparabile la didattica a distanza con la didattica in classe. Quella è una situazione di emergenza assoluta nel caso del lockdown, però devo dire ha funzionato con un grande spirito di sacrificio e di competenza degli insegnanti. I ragazzi sono stati encomiabili, questa caccia al ragazzo untore, al ragazzo pericolo, io è una deriva che non sopporto per nulla. I ragazzi sono stati bravissimi, penso non solo a Napoli ma anche in tutta Italia, quindi è una misura che può essere adottata, ma in caso di assoluta emergenza bisogna ritornare a scuola. Bisogna ritornare a scuola. Gianfranco, dalla provincia di Verbania. Buongiorno. Buongiorno. Io ho una scuola privata a Milano, un liceo artistico paritario. Di tutti i miliardi che sono stati stanziati per la scuola, c'è un euro stanziato anche per queste povere scuole private che dovranno fare tutto per conto loro? Quindi lei lamenta il fatto che le scuole paritarie non siano poi state aiutate dal governo. Questa è la sua denuncia. Paolo da Pescara. Salve, buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Sono padre di 3 figli. Mi facevo una domanda. Qui dalle nostre parti le classi sono già tutte con i banchi monouso. Quelle che vediamo giornalmente in televisione, le vediamo sui giornali, sono tutti banchi monouso per tutta l'Italia. Mi chiedevo ignorantemente, ma a cosa servono questi milioni di banchi monouso con le rotelle? Mi chiedevo, tutti quei soldi che sono stati spesi e che verranno spesi per questi banchi monouso non potevano essere spesi magari per il rifacimento delle classi, per appunto dell'edilizia scolastica? E poi banchi monouso con le rotelle non è che creano dei problemi, perché i ragazzi in classe si potranno spostare molto meglio degli attuali banchi monouso, che sono praticamente, una volta che tu li hai piazzati a terra a 1 metro di distanza l'uno dall'altro, rimangono in quella maniera. I banchi monoposto, grazie. Allora, Luigi De Magistris, questi banchi monoposto con le rotelle erano necessari e sono arrivati a Napoli? Poi un po' di curiosità. Guarda, io condivido questa riflessione del nostro amico Paolo da Pescara, tant'è vero che noi le risorse che sono state destinate ai comuni, alla città metropolitana, e quelle che avevamo come comune e città metropolitana le abbiamo utilizzate, le stiamo utilizzando tutte per migliorare l'edilizia scolastica, cioè avere più spazi, recuperare gli spazi abbandonati, allargare, utilizzare gli spazi all'aperto. La storia dei banchi a rotelle, a me devo dire che con le rotelle non mi ha mai affascinato e lo trovo una spesa inutile, come tante spese inutili si stanno facendo e sulle quali bisognerebbe cominciare ad aprire una riflessione forse più approfondita. Grazie. Allora, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e do il benvenuto a Rossano Sasso, deputato della Lega della Commissione Cultura della Camera. E visto che lei è all'opposizione, subito le chiedo, il governo poteva fare di più? Io le rispondo, innanzitutto buongiorno, ma le rispondo dicendo che il governo poteva fare qualcosa, perché il governo ha perso 6 mesi di tempo, ha stanziato fondi che per il momento non sono arrivati neanche agli enti locali, almeno stando a quello che dice il presidente dell'ANCI De Caro, l'ha detto ieri. Nelle scuole non è stato fatto nessun lavoro, si parlava di edilizia scolastica leggera, così era stata definita. Io non ho visto gru nelle scuole che giro, in cui giro, nelle scuole delle mie figlie, da insegnante quale sono in aspettativa, parlo ogni giorno con i colleghi docenti, con i dirigenti scolastici. I banchi forse arriveranno a fine ottobre, ma vengo al dunque. Tantissime mamme e tantissimi papà sono molto arrabbiati, perché dopo 6 mesi di nulla, dopo 6 mesi di tutto il contrario di tutto, il CTS ieri, che noi audiremo in Commissione Cultura il 27 agosto, perché il Parlamento in questo periodo non lavora incredibilmente con tutte le emergenze che affronta il nostro Paese, audiremo il coordinatore Miozzo che ci dirà che si potrà andare a scuola anche se non c'è le distanze, anche se non ci sono le distanze, sarà sufficiente indossare la mascherina. Allora mi chiedo, per quale motivo il governo italiano non ha riaperto le scuole il 4 maggio, quando tutto il paese ha riaperto, quando è stato possibile circolare liberamente, mandando i nostri figli semplicemente con le mascherine? Il diritto allo studio di 8 milioni di studenti quindi è stato negato. Non sappiamo come riapriranno le scuole, ho sentito abbondantemente per buoni 30 minuti i colleghi alternarsi ai vostri microfoni, ma la realtà è questa: innanzitutto non è vero che vengono assunti 90.000 insegnanti, perché i concorsi che sono stati banditi non sono stati ancora espletati. saranno assunti 50.000 precari, ma per la prima volta nella storia del diritto scolastico parliamo di assunzioni a cottimo per personale pubblico, perché questi saranno licenziati non appena ci sarà la pandemia. Quindi non è vero assolutamente niente. Il ministro Azzolina ci ha abituato a fare degli annunci e poi a ritirarli dando la colpa o alla Lega o a Salvini. La situazione è molto preoccupante e vi dico che molti genitori, proprio perché c'è assoluta incertezza tra il corpo docente, incertezza tra i dirigenti scolastici, stanno provvedendo all'istruzione parentale. Ecco, l'istruzione pubblica in Italia, il diritto allo studio sarà purtroppo possibile effettuarlo soltanto per chi si potrà permettere un insegnante a pagamento a casa propria. E questo è tristissimo, e da insegnante davvero sono addolorato, perché, ripeto, lo Stato non fa alcuna chiarezza, sono stati stanziati pochi soldi nella realtà, verranno spesi male con i banchi o con altre misure che non hanno alcun effetto. Ma, insomma, lei è molto critico, però la interrompo un attimo perché abbiamo Viviana Sidoni che è un genitore e ha fatto un esperimento per il rientro in classe, no? Un istituto di Roma ha detto docenti e genitori devono lavorare insieme per la riapertura. Allora, Viviana Sidoni, lei è presidente del consiglio d'istituto comprensivo del Dante Alighieri di Roma. Che cosa state organizzando per la riapertura delle scuole? Sidoni. Buongiorno. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Perfetto. Allora, noi abbiamo da subito calcolato, in base alle linee guida uscite il 26 giugno, che la necessità prioritaria era capire la capienza di ogni classe. E in base a quella abbiamo studiato lo spazio in base agli alunni che avevamo. E la prima cosa da fare era comunque il banco singolo, perché è vero che non quello con le rotelle, ma quello classico, era una condizio sine qua non per ottenere in quella capienza esattamente gli alunni che noi avevamo. Quindi abbiamo fatto una call tra genitori per liberare le stanze insieme con i docenti. Tutte le aule le abbiamo svuotate in una maratona di due giorni con i 40 gradi al sole, però la volontà era di riportare i ragazzi in classe. Nel frattempo, come consiglio d'istituto, abbiamo deliberato l'acquisto in maniera autonoma dei banchi senza aspettare quello di Stato, perché avevamo paura, quello che sta succedendo, che non arrivassero in tempo per garantire ai ragazzi di tornare il 14 settembre. Quindi aiutati che Dio t'aiuta, insomma. Marco dalla provincia d'Arezzo ci vuole fare una domanda e poi ripassiamo la linea a Rossano Sasso della Lega. Sì, buongiorno. La mia domanda era davvero era indirizzata alla vicepresidente del Grillini al Senato, perché adesso non mi pare ci possa essere una risposta, ma era relativa al fatto se si spendono tutti questi soldi per fare il distanziamento e le mascherine dei bambini e poi gli stessi bambini stanno promiscui tutto il giorno in altre attività sportive eccetera, quindi mi sembrano un sistema inutile e sbagliato. Vorrei sapere anche come funziona in Europa, cosa fa l'Europa in questo modo, se fa come noi o in maniera differente. Rossano Sasso, allora abbiamo sentito questo genitore che dice che cosa, cioè è inutile, stiamo facendo tutte queste cose, poi i bambini vanno, giocano e si contaminano, no, in altri ambienti. Le perplessità del genitore sono sacrosante, anch'io da papà vedrò mia figlia distanziata a scuola e poi potrà uscire il pomeriggio con le stesse amiche, però il punto non è questo, il punto è che la Lega fin da marzo, quando era chiaro a tutti che eravamo di fronte ad una pandemia, aveva fatto delle proposte semplici che avrebbero tra virgolette richiesto anche la metà dei soldi che questo governo ha deciso di stanziare per il momento solo sulla carta. La prima cosa era allargare gli ambienti scolastici. La seconda era assumere più personale. Qualcuno mi deve dire sulla base di cosa si dice che saranno eliminate le classi pollaio. Non è stata fatta alcuna norma. I dirigenti potranno ancora formare le classi da 28. Allora, il contagio lo diminuisci se non metti 28 alunni in una classe, ma se ne metti 18. E si migliora anche la didattica in questo modo. mascherina sì, mascherina no, non è questo quello che più mi interessa. Il punto è che, lo ribadisco, per oltre un mese e mezzo i nostri bambini, i nostri ragazzi non sono andati a scuola perché non erano garantite le distanze, e oggi il ministro Azzolina ci dice vabbè, facciamo finta di nulla, anche nelle scuole in cui non ci sono le distanze i nostri figli potranno andare ugualmente a casa. E le dirò di più, i dirigenti scolastici stanno chiedendo un aiuto ai genitori ancora una volta economico per potersi dotare di termoscanner, perché tra le tante cose questo ministro ha detto alle famiglie italiane: misurate voi la febbre ai vostri bambini perché noi non abbiamo né tempo né soldi. Ma il ministro Azzolina lo sa che la mattina alle 8, quando le mamme e i papà vanno di corsa per andare al lavoro, anche con qualche linea di febbre il bambino lo mandano ugualmente a scuola? Ecco, una irresponsabilità, a parte una incapacità gestionale del Ministero, in questo modo non si era mai visto, però il Ministro nello stesso tempo trova il modo e il tempo di assumersi come dirigente scolastico. Allora, ricordiamo poi al radioascoltatore che l'UNESCO calcola che il 60% della popolazione studentesca nel mondo è danneggiato dalla pandemia, quindi non è solo l'Italia. Io chiudo questa parentesi sulla scuola per ritrovarci subito dopo e parleremo del bonus del 110%, cioè la guida completa sul Sole 24 Ore. Approfondiremo come ottenere questo bonus. Ma cos'è quest'estate? 0024 il numero verde per intervenire, il numero per gli sms 349-238-6666 per chi volesse chiedere delle delucidazioni sul bonus ristrutturazioni. Ricordiamo che oggi con il nostro quotidiano Il Sole 24 Ore è in edicola proprio una guida completa, 100 pagine di spiegazioni su questo bonus, scritte tra i colleghi ovviamente da Saverio Fossati, giornalista del Sole 24 Ore, proprio è autore della guida, e poi da molti esperti che seguiremo e sentiremo in questa mezz'ora. Saverio, allora, è un rebus questo, un puzzle tu lo chiami, questo bonus del 110%. Ci vuoi dire come funziona, le linee guida? Beh sì, è un puzzle perché bisogna mettere insieme un sacco di tasselli. Intanto dal punto di vista, diciamo, del tipo di lavori che bisogna, che si possono fare, no? Perché diciamo, il senso generale è che ci sono dei lavori trainanti, come li chiamano, e dei lavori trainati. I lavori trainanti sono quelli che sono un po' alla base di tutta la faccenda, cioè scusatemi, e cioè sono i lavori di coibentazione, quelli che chiamiamo il cappotto termico, che riguarda tutto l'edificio o una parte di essa o il tetto, oppure la sostituzione dell'impianto centralizzato dell'edificio con una caldaia a condensazione a pompa di calore. Ecco, questi sono i due grandi lavori, diciamo così, portanti. Perché li chiamiamo portanti? Perché senza di quelli non possono essere fatti i lavori cosiddetti trainati, cioè lavori che normalmente noi eravamo abituati a detrarre al 50%, al 65%, che invece scusatemi ancora, e che invece vengono attratti anche loro al 110% se si fa uno di quei lavori base, diciamo così, all'edificio. Dico sempre all'edificio perché i lavori negli appartamenti possono essere solamente quelli trainati, quindi uno diciamo immagina di rifare l'impianto di riscaldamento del suo appartamento, ebbene se non lo può fare perché non c'è stato un lavoro trainante nel condominio. Quindi tu ci stai dicendo che è importante capire che per ottenere questo bonus deve essere fatto comunque il lavoro nel condominio, e poi gli appartamenti si possono adeguare. Non è che una persona che per esempio vive in un appartamento a Roma decide: io cambio tutti i termosifoni. Non è così. Non è così, tranne in un caso molto molto particolare che riguarda, per così dire, gli edifici plurifamiliari, quindi anche i condomini, ma questa è una cosa che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente nella circolare, i quali abbiano alcune unità immobiliari che si possono definire funzionalmente autonome, cioè completamente separate dal resto dal punto di vista degli impianti e dell'ingresso. In realtà questa norma è stata prevista, questa eccezione è stata prevista per le classiche villette a schiera, che in un certo senso sono in un condominio, però ciascun chiamiamolo appartamento è completamente autonomo, è separato, è quasi come se fosse una villetta separata. Ma in realtà se noi abbiamo in un condominio normale, come spesso accade a Milano, ma credo anche a Roma, delle unità immobiliari che sono ovviamente sempre al piano terra, completamente autonome e separate, cioè sì, fanno parte del condominio, però hanno impianti dell'acqua, del gas e della luce separati e hanno l'ingresso separato normalmente su strada, ex negozi che sono diventati loft o ufficio o cosa del genere, anzi scusate, loft, cioè abitazioni in uffici, ebbene questi potrebbero fare la loro riqualificazione energetica da soli se il condominio non volesse farlo, però si tratta di casi diciamo abbastanza limitati. Il principio generale riguarda l'edificio, quindi o la diciamo villetta, per così dire tutta intera, o il condominio, perché la villetta che abbia non so più appartamenti è naturalmente anch'essa un condominio. Alessandro Borgoglio, lei ha partecipato alla stesura di questa guida, è un esperto tributario. Allora noi vogliamo capire, io voglio ottenere questo bonus, che cosa devo fare, come lo devo chiedere, ci ha spiegato Saverio Fossati che si può chiedere solo per i condomini, quindi come mi devo regolare, no, per dipanare questa matassa? Allora, per quanto riguarda gli appartamenti, gli alloggi in condominio, sostanzialmente bisogna attendere che il condominio effettui i lavori sulle parti comuni condominiali. Questo perché il singolo condomino, il proprietario, non può partire di sua iniziativa a effettuare dei lavori, perché in questo caso non ha diritto al 110%. Occorre quindi che il condominio effettui degli interventi di, ad esempio, isolamento termico delle facciate oppure di sostituzione degli impianti di riscaldamento, e in questo caso allora anche il singolo condomino ha diritto a beneficiare del 110 per gli interventi sul suo alloggio. Interventi che possono essere ad esempio di sostituzione delle finestre comprensive di infissi, oppure ad esempio nel caso in cui il condominio non sia dotato di impianto centralizzato, il singolo condomino può effettuare un intervento di sostituzione del suo impianto termoautonomo. Quindi della caldaia, se non c'è la caldaia. No, parliamo in modo semplice, così tutti quanti ci possono capire. Sì, diciamo che una volta che il condominio ha effettuato preliminarmente questi interventi sulle parti comuni, quindi dicevamo o sulla facciata o ad esempio sull'impianto centralizzato, a questo punto anche il singolo condomino può intervenire con degli interventi diciamo minori, sempre di efficientamento energetico, sul suo alloggio, e normalmente questi interventi minori sono ad esempio il cambio delle finestre, perché magari nell'alloggio ci sono delle vecchie finestre che non tengono più, che hanno spifferi e quant'altro, quindi si possono sostituire con dei nuovi serramenti più performanti da un punto di vista energetico. E stesso discorso per quanto riguarda ad esempio quei magari condomini non nuovissimi dove non esiste un impianto di riscaldamento centralizzato, allora magari il condominio sulle parti comuni effettua sostanzialmente un intervento di isolamento termico ad esempio delle facciate, in questo caso il singolo condomino può effettuare un intervento sul suo singolo impianto termoautonomo, quindi andando a cambiare la sua caldaia di casa, per intenderci. Ovviamente in questo caso sono poi agevolati anche tutti gli interventi correlati, come la sostituzione dei termosifoni, l'impianto riscaldante a pavimento e quant'altro. Maurizio da Fermo ha una domanda. Buongiorno a tutti gli esperti e approfitto della vostra professionalità. Io ho una casa a due piani, io e mia sorella, io abito sopra e lei abita sotto, quindi sotto abbiamo il garage. Siamo d'accordo per fare il cappotto termico. Mettiamo l'ipotesi che mia sorella non vuole la pompa di calore, quella unica, diciamo, per tutti e due gli appartamenti. Posso io da solo fare una pompa di calore e raffrescamento solo nel mio appartamento, o devo trasformare la casa di due piani in condominio? Saverio, in casa condominiale. Saverio Fossati, cosa rispondi a questo radioascoltatore? Dovrei sapere se sono due unità immobiliari separate o un edificio unico di un unico proprietario. Siamo due proprietà, io e mia sorella. Abbiamo un'entrata con la tromba delle scale, come si chiama poveramente. Lei ha un ingresso al primo piano, io al secondo piano. Però il tecnico, ma le unità immobiliari sono separate. Le unità immobiliari, sta chiedendo Saverio, sono separate oppure no? Catastalmente. Sono separate, certo. Sì, sì, sono separate. Io e mia sorella, io sono un proprietario, lei è un'altra proprietaria. Ecco, però il tecnico mi ha detto. Sì. Mi ha detto che per la bomba di calore bisogna mettere una unica per tutti e due gli appartamenti per avere l'incentivo. Sì. Esatto. Esatto. Una per tutti e due, no? Allora, una per tutti e due gli appartamenti. E più, ma devo trasformare la mia casa in condominio? Dunque, la sua casa è già un condominio. Cioè il fatto che esistono due unità... Però, mi scusi, però l'ufficio delle entrate non risulta condominiale. Allora, l'agenzia delle entrate non ha nessuna importanza. Il fatto che esistano due unità immobiliari separate in un unico edificio, quello è un condominio. Non è che il condominio si costituisce con un atto notarile. Il condominio esiste per il solo fatto che ci sono due appartamenti separati catastalmente in un unico edificio. Quindi voi ovviamente, essendo fratello e sorella, non siete mai preoccupati di fare, non so, l'assemblea condominiale, queste cose, però per prendere una decisione nel quale non si sia d'accordo occorre fare un'assemblea condominiale, che fare un verbale e votare, no? Quindi, che tra fratelli, Saverio, diciamo. Fratelli o estranei è la stessa cosa, non ha nessuna importanza, perché quella non è una comproprietà, come sarebbe stato se fosse stato un edificio unico, magari ereditato, no, però senza che le unità immobiliari fossero separate. È proprio un condominio, piccolissimo, un mini condominio, ma è un condominio. E quindi valgono le regole del condominio. E quindi, essendo un condominio, l'impianto, diciamo così, va sostituito a livello centralizzato. Cioè deve essere un impianto comunque centralizzato per tutto il condominio, per poter beneficiare di questo aspetto. Però voi un lavoro effettivamente lo fate, che è quello della coibentazione, che è un lavoro comune. È un lavoro sulle parti comuni che riguarda tutte le unità immobiliari, quindi c'è un lavoro trainante che viene fatto. Voi farete la vostra mini assemblea condominiale, voterete all'unanimità di fare il lavoro sulle parti comuni, inteso come lavoro di coibentazione. Dopodiché allora possono partire i lavori trainati, quelli che dicevamo prima io e il dottor Borgoglio, e cioè i lavori al singolo appartamento. Certo, allora... Quello di mettere una pompa di calore per il proprio appartamento, dal mio punto di vista si può fare. Laura da Verona. Sì, buongiorno a tutti, sono Laura. La mia domanda riguarda la cessione del credito alla banca, del super bonus, perché io sto iniziando una ristrutturazione e ho un appuntamento in banca, ma mi hanno già precisato che la cessione del credito si fa con l'apertura di uno scoperto di credito, quindi un nuovo conto corrente, che avrà la durata di un anno e mezzo. E quindi pagherò degli interessi passivi sulle fatture del super bonus che porterò in banca. La mia domanda però era, se io non riuscirò a completare i lavori entro quest'anno e mezzo, cosa succederà? Ecco, cosa succederà? Lo chiediamo, se mi permettete, a Giampaolo Gugliotta, partner di CTL, dottore commercialista, revisore contabile che ha anche partecipato alla guida. Buongiorno Gugliotta, cosa succederà? Buongiorno. Chiede Laura. E che, scusa, avrei bisogno che l'ascoltatrice ripetesse la domanda. Sì, Laura. Perché, non l'ho sentita bene. Allora, io chiederò il mio credito del super bonus alla banca. Sì. La banca acquisterà il mio credito e mi farà un contratto per uno scoperto di credito di un anno e mezzo. Sì. Io porterò le fatture in banca e su questo conto mi verranno anticipate le spese, mi verranno rimborsate e praticamente io troverò magicamente i soldi per pagare queste fatture. Ovviamente sì. Pagherò un interesse passivo che avrà la durata di tutto il tempo fino a quando l'Enea non rilascerà il benestare, cioè, non so se l'Enea rilascerà un benestare, o fino a quando arriverà questo credito alla banca. che anche lì è una nebulosa, non si sa. E cosa succede se io in un anno e mezzo non riesco a finire i lavori e quindi non riesco a preparare questa certificazione da mandare all'Enea? E quindi cosa succederà? Sì, guardi, per come ci sta presentando diciamo l'operazione, io credo che diciamo il rapporto con la banca che lei sta andando ad instaurare esula dal contesto cessione del credito previsto diciamo dalla normativa. Ma penso che la banca stia operando con lei diciamo un rapporto privatistico tra lei e la banca proprio per anticiparle i soldi per poter realizzare l'intervento. Quindi sostanzialmente diciamo questo è un precessione del credito, cioè la banca le sta dando la provvista per poter effettuare i lavori, perché se, come lei sa, per cedere il credito bisogna finire i lavori o comunque il credito può essere ceduto in base allo stato avanzamento lavori. Perciò io credo che nel caso in cui non dovesse riuscire ad ottenere tutte le certificazioni, quindi in buona sostanza lei non dovesse riuscire ad avvalersi della detrazione, e a quel punto dovrà restituire i soldi alla banca, perché la banca si aspetta semplicemente, cioè attualmente le sta facendo diciamo semplicemente le sta aprendo una linea di credito che poi andrà a chiudere con la cessione del credito derivante dalla detrazione del super bonus 110% in base all'intervento che lei sta andando ad operare, e quindi a quel punto l'operazione sarebbe conclusa. Quindi insomma è un rapporto privatistico, come dice lei, è un rapporto di un prestito. C'è una domanda di un radioascoltatore che farei ad Alessandro Borgoglio, che ha curato poi la parte per i bonus per i lavori negli appartamenti. Ho una villetta e voglio mettere i pannelli fotovoltaici. Sono costretto a fare anche altri interventi? Sì, necessariamente sì, perché occorre sempre comunque un intervento trainante per poter accedere a quelli che sono gli interventi, diciamo così, secondari o trainati al 110%, come l'installazione del pannello fotovoltaico. Quindi nel caso del radioascoltatore sarà necessario che comunque sulla villetta effettui almeno un intervento che potrebbe essere di coibentazione, quindi di cappotto termico, oppure sempre di sostituzione della caldaia, dell'impianto di riscaldamento, che dir si voglia, per poter poi accedere al 110% anche per l'installazione dell'impianto fotovoltaico. E ci sono moltissime domande, è un argomento, Saverio Fossati, che interessa tutti gli italiani. Ve ne leggo qualcune. Non riesco a capire se la cessione del credito spetti anche agli incapienti. Per favore rispondete, perché è fondamentale, visto che pochi potranno detrarre tutte le spese in 5 anni, chiede Dino. Poi, in caso di acquisto di vecchia casa con conseguente demolizione e ricostruzione di casa nuova, è applicabile il bonus, chiede Pino da Treviso. Nel caso di rifacimento, riscaldamento a pavimento, la pavimentazione deve essere fatta in un certo modo? Rientra anche nella detrazione oppure no? Chiede Marco. Insomma, queste sono le domande. Saverio Fossati, giornalista del Sole 24 Ore, cosa risponde a questi radioascoltatori, a parte dire che possono e devono comprare la guida del Sole 24 Ore che si trova oggi in edicola e di cui tu sei l'autore? Sì, allora sì, no, sono solo l'organizzatore, ma allora innanzitutto la guida in edicola oggi è solo oggi, quindi vi conviene precipitarvi a comprarla perché poi non si trova più, non rimane in edicola. Allora, gli incapienti sono tutelati proprio con la cessione del credito, cioè chi cede il credito non deve poi fare la detrazione se la fa quello che compra il credito, per questo che le banche hanno messo in atto questi prodotti. Perché loro il credito se lo comprano e usano, perché loro le tasse da pagare le hanno. E invece la persona normale certo non ha da pagare, non so, 2.000 o 3.000 euro di tasse in più tutti gli anni per 5 anni in modo da scontarsi la percentuale che gli spetta. Ecco come funziona la cessione del credito. Quindi tutti quelli che non hanno tasse da pagare sono tutelati al massimo, vanno dall'impresa o dalla banca e cedono il loro credito. Lo cedono al 110%, beh, questo è un po' difficile, ovviamente chi compra, perché la contrattazione libera, comprerà un po' di meno. Per esempio Unicredit ha presentato, è stata la prima, forse tra le prime a presentare il suo prodotto in questi giorni, compra al 102%. che è sempre un bel comprare, per carità, ma ci guadagna, per così dire, l'8%. Lei sconterà le sue tasse, avrà un 110% da usare per le sue tasse. Poi quali erano altre due domande che ovviamente non... Allora non no, ce n'è, infatti c'è Walter che dice, e così com'è la cessione del credito da super bonus alla banca, è un finanziamento a tasso di usura. Ecco, qui abbiamo una critica. No, invece... Allora, se un tasso di usura, scusatemi, ma se un tasso di usura il 2 o il 5% l'anno, vedete un po' voi, c'è un tasso di usura è il 30% l'anno, in questo caso uno vi prenderebbe il credito al 20%, invece normalmente le banche, vedo, si stanno orientando a prenderlo intorno al 100, 102, 98, non mi sembra che stiano facendo tassi di usura. Ma sì. Allora, Silvio Ripetti, esperto fiscale, ci ha raggiunto anche lui, è altro autore di questa guida completa al bonus del 110%. Alcuni radioascoltatori ci chiedono, ma come si calcolano le prestazioni professionali, no? E le attività in più degli amministratori, chi le paga? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. È un tema delicato perché questa versione potenziata degli eco bonus e dei sisma bonus comporta spese ulteriori, tematiche già viste in passato in materia di asseverazioni e di attestazioni, che oggi diventano particolarmente delicate nel momento in cui i professionisti sono chiamati a, come dire, collocare il bollino blu anche sulla congruità delle spese sostenute, comprese quelle professionali. Le spese professionali vanno computate in relazione a quelli che sono i prezziari, che sono propri delle attività professionali svolte, oppure in relazione a quelle che sono le, come dire, prezziari propri delle attività tecniche che devono essere eseguite. Per questo motivo è veramente importante fare attenzione a coinvolgere nell'ambito delle spese da sostenere soltanto quelle attività professionali che sono strettamente collegate allo svolgimento degli interventi che devono essere svolti. L'amministratore oggi svolge un ruolo centrale, perché le attività che vengono messe in atto in ambito di condominio vedono la gestione da parte dell'amministratore come una gestione assolutamente centrale. L'amministratore non è tenuto, non ha diritto a compensi extra che non siano approvati da parte dell'assemblea, e questo è un elemento da tenere assolutamente presente ai fini della detraibilità delle spese relative. E chiedo... Le spese dell'amministratore per la gestione extra del super bonus devono essere approvate dall'assemblea, sottolineo, in relazione a quelle che sono le maggioranze obbligatorie per dare il via ai lavori, quindi maggioranze qualificate che potranno essere quelle ovviamente degli intervenuti in assemblea e che costituiscano almeno i 500 millesimi, oppure se c'è già stata una mappatura energetica dell'edificio rappresentativa almeno di un terzo del valore dell'edificio. Non vi posso dire quante telefonate, Saverio, abbiamo telefonate e delucidazioni su questo bonus del 110%. Penso, se tu sei libero, noi domani dobbiamo fare assolutamente un'altra mezz'ora, perché abbiamo avuto moltissime telefonate che non riusciamo veramente ad ascoltare. Molti radioascoltatori ci chiedono tantissime cose. Volevo in un flash, per esempio, il decreto prevede la possibilità di installare l'impianto fotovoltaico anche su nuove costruzioni? Ma com'è possibile se nel caso non si hanno interventi trainanti? Ci chiede Giovanni da Lucca. Saverio, siamo in chiusura, quindi questa è tua di domanda. No, l'impianto fotovoltaico così da solo, senza gli interventi trainanti, non si può fare. Quindi il fatto che sia un edificio nuovo o non nuovo non ha nessuna importanza, l'importante è che sia, diciamo, abitato, ecco, che esista un condominio o che esista un proprietario che ci abita, cioè sia un edificio unifamiliare o che sia un condominio. Tuttavia ci si può inventare qualcosa, per esempio è difficile che un edificio non interessi una pompa di calore, ecco, una nuova caldaia a condensazione. Ma è chiaro che un intervento che sarebbe trainato senza l'intervento trainante non si può fare. Un'altra domanda è, il tetto di una villetta rientra nel bonus? Rientra in quanto superficie che deve essere coibentata, cioè se c'è almeno il 25% della superficie totale dell'edificio, compreso il tetto. no? Che viene coibentata, che ci si fa il cappotto, cioè il tetto viene rifatto e viene fatto dal punto di vista del risparmio energetico con un passaggio di due classi, allora sì, ma se il tetto è, come spesso capita, meno del 25% dell'involucro totale, allora no, il tetto da solo non basta per fare un intervento trainante. Allora ricordo che intanto ringrazio tutti gli esperti che sono stati con noi questa mattina, che in edicola solo per oggi la guida di Saverio Fossati, giornalista del Sole 24 Ore, sul bonus 110%. Non abbiamo potuto rispondere a tutti, ma l'argomento è molto sentito, come ha detto Saverio, precipitatevi perché c'è solo oggi, sono 100 pagine che spiegano tutto. Io ringrazio Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Alessandro Chiappini e Peter Bescapè in regia, e vi do appuntamento a domani sempre con Ma cos'è quest'estate?